dobbiamo risolvere questa crisi insieme, ma l'avvertimento di Moody's dell'altra notte, cioè la prospettiva negativa anche per la Germania, e la Germania rischia di perdere il triple E, dimostra una cosa, che anche le forze della Germania sono limitate. La Germania da solo, insieme con l'Olanda e la Finlandia, non può sorreggere tutto il debito europeo, e questo ci porta alla conclusione che c'è una sola soluzione per la crisi del debito europeo, è quello che gli Stati europei devono ridurre il debito pubblico. Non c'è alternativa alla riduzione del debito pubblico, questo significa risparmiare, no? E ci sono diverse vie per farlo. C'è il patrimonio pubblico, c'è il patrimonio privato, sono le riforme strutturali, ma non esiste alternativa alla riduzione del debito pubblico, altrimenti tutta l'Europa va in bancarotta. No?